di edilizia. Ma mentre Mauro cosa fa? Non c'è Mauro. Ah, nel senso urbano. Allora, quindi sappiamo più o meno un po' tutti cosa facciamo adesso, no? Tante volte parli di qualche argomento, è meglio sapere con chi stai parlando in modo che lui ti possa rispondere, come per il discorso di poco fa di Domenico. Lui fa l'autotrasportatore, ma certe informazioni le sa molto di più di noi, che facciamo mestieri completamente diversi. Vediamo un po' se c'è qualche donato che vuole entrare. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, avanti qua, buonasera. No, ci sono. Cosa, aspetta, quindi Mauro abbiamo detto, ci ha riferito Falchetto, cosa abbiamo detto un po' più o meno i mestieri che facciamo tutti. Ho fatto la chiamata su 10, se c'è qualcuno, non c'è nessun altro, per cui riprendiamo da Falchetto. Anzi, direi prima da Domenico, se l'ascoltiamo un attimino, lo vuole salutare, se mi ascolta ancora, se no, se fosse Falchetto arriva meglio. Avanti Domenico, se mi ascolti. Sì, anche io ti ascolto perfettamente. Ok, vabbè, ho detto, come ho detto prima, Mario, qualche domenica avremo modo di approfondire l'argomento, che è abbastanza interessante, dei mezzi pesanti e dei limiti, che quello lì è soprattutto ancora più interessante, perché ho visto, come ti ho detto l'altro giorno, non ho capito a quanto devono camminare questi mezzi, ma ne passavano oltre 100 km orari davanti. Va bene, ok, avanti Falcos, facci sognare. Ma è così. Niente che dire, sto vacando, sto appena rientrando, ho acceso l'apparato e niente, poi si è tratto tutto, beh, mano a mano sono stato un po' tutto. Bene, io saluto Domenico prima di perderlo, perché ho tanti di quei disturbi oggi che, guarda, non se ne capisce niente. Ok, dove fate la buona, non rientro con tutto, niente, dai. Dai, più prudenza, mi raccomando, che non basta mai. Ok, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buon tutto. Avanti, non so se l'hanno ascoltato gli altri amici, Mauro e Sandro. Avanti prima Sandro e poi Mauro. Registrato il brecco. Ok, registrato il brecco. Scusate che ho cambiato musica, almeno qua posso attenuare, posso eliminare tutte le scariche. Adesso sarò cambiato di modulazione e tutto quanto. Ok, avanti il brecco. Sì, buonasera Leoncino, qua Roberto, del programma Roberto, Antonio Falchetto, Sandro e Mauro. Poi non c'era un attimino Domenico, abbiamo salutato che sta andando nella zona di Olbia, poi c'era Luca un attimino, comunque ti rilancio Falchetto che poi farà girare avanti Falchetto. Ciao Giuseppe, buon sempre bassino, cerca di metterti un po' l'antenna, grazie a Dio. Comunque salutoni, avanti Sandro, per Giuseppe. Ok, va benissimo. Io veramente facendo anche un attimino il distratto, mentre vi ascolto e parlo sto facendo sempre qualcosa, tutto lì. Va bene, Giuseppe, mi hai detto Giuseppe? Positivo? Fai un altro passaggio? Il segnale fai più che bene. Vedo un po' la modulazione, la radio, bassina. Che cos'è un apparato superiore, di categoria superiore quello che sta utilizzando? Ma diciamo niente di particolare, più o meno sono gemelli. Non ho capito, cosa vuol dire? Gemelli con chi? Gemelli con il primo apparato che stavo modulando. Sì, ma è una cosa, quello che volevo dire, se mi capisci, qualcosa di bassa categoria o categoria superiore, intendo un altro genere di apparato, quello lì che ti volevo chiedere. No, niente. Un'opera e mezzo, perché trovi diversità? No, per volevo capire che cosa tratta di loro, perché sembra un apparato digitale di quelli di nuova generazione che hanno dei filtri e delle equalizzazioni particolari. Cos'è, se posso dirlo, con la I inizia o con la Y? Incomincia con la M, un Midland, che c'ha il filtro, la NL, il filo, il dutto, quella roba lì. Tutto quello che ho detto comunque non ho detto una grande fesseria, no, sembrava un incomo, tra parentesi, quelli che hanno il modulatore digitale, eccetera, eccetera, dove puoi intervenire sull'equalizzazione, perché ce ne sembra che c'è una voce equalizzata, cioè molta tonalità media e pochi acuti, cioè sembra che stai parlando una voce metallica, il segnale è fortissimo, la radio forte come intensità, però sembra molto metallica, ma quello ho detto che strano, cosa c'è? Perché non c'è un microfono, un MB più 5 con i controlli? Controlli particolari, regolati in posizione particolare. Ci sei, Sandro? Perso. E riprendi tra Giuseppe e poi fa girare per Mauro. Va bene, Mauro, riprendi. E io vi lascio perché mi hanno chiamato a mangiare e ci sentiamo alle prossime. Saluto a tutti. Buon proseguimento. Oh, ci sentiamo più tardi o domani. Ciao a tutti e buon proseguimento. Ciao Mauro, ben sentito alle prossime, buona carica, anche io tra poco mi chiameranno, starò aspettando, sono in attesa. Ok, facciamo girare a Falchetto per i saluti, avanti Falchetto e poi a Sandro, sono rientrato. Io ne approfitto, saluto a Mauro, buona carica con tutto, a me mi hanno chiamato a caricare lo stesso. Se coincide a più tardi, se no consideratevi tutti salutati. Ciao Roberto, ciao Sandro, ciao Mauro, ciao Domenico, ciao Giuseppe. Io vado a fare carica, a più tardi se coincide, ciao. Ciao anche a te, buona carica, buon tutto, dai, se ci sarò ci sentiremo dopo. Ok, volevo sentire un attimino Sandro, se c'è ancora, se no facciamo girare per Giuseppe. Isma, avanti Giuseppe, dopo mi hai detto che moduli tu, mi sembra che mi hai detto un'altra volta Giuseppe. Ho capito. E lì c'era... aspetta, chi c'era ancora da lì? Ricordo un altro, c'aveva il coso, il... tu c'hai la mano, ma che cosa c'è di antenna? Ah, sì, me l'avevi detto, che l'aveva fatta con un pompugno, quella con la canna da pesca, quella lì se non sbaglio. No, sta arrivando bene, qua c'è un tre nome come segnale. E io come ti arrivo dalle tue parti? No, vabbè, con cosa mi stai ricevendo? Con che apparato? Cos'era la 48? Il microfono c'ha il suo originale, però sei bassino di radio, c'è il segnale forte, però la radio stranamente è abbastanza bassa, ma tutto aperto c'è il Mickey Game. Sì. Allora io nell'area 48, se vuoi un consiglio, li metti l'M93 di microfono, sempre da Palmo, se vuoi rimanere da Palmo, una bomba, sai come spara, è una meraviglia. E anche qualche altra persona l'ha messo, ha detto parliamo Midland originale senza essere modificata, poi ci sono delle modifiche di puoi lavorare diversamente. No, anche col, non parliamo di mettere il tunnel, perché se riesci a mettere il tunnel è una bomba con l'apparato. Io ti dico, di segnale sta uscendo bene, almeno io ti ascolto benissimo. Radio 5 è un po' bassina come livello, ma di mettere un più microfono un po' che ti alza un pochettino il livello della modulazione, però per il resto è tutto perfetto, la radio chiara, non lo vedi difetti, dai. Potresti uscire un po' più forte, solo quello. La differenza rispetto agli altri è solo quello noto, però purtroppo ci sono quelli che sono un po' più alti, quando ascoltate ti sento un pochettino più basso, solo come radio, non come segnale, perché il segnale va benissimo. Tu lo usi anche per lavoro, quindi lo sposti anche da lì, la utilizzi in vettura, o in cambio, cosa c'è? No, io ce l'ho anche in macchina. Diciamo. Mia Claudio, ero messo andate al tragitto, non l'ho più sentito, c'è anche l'uncino. Ciao Claudio, ti rilascio per l'uncino. Avevi visto ascoltando, mi sono occupato al chino anche io. HB 23, coltando il più 3, tutto 3, 3 e 3 fanno 6, 6 e 6 fanno 12. Per ammariare lei, va? No, mi sto ascoltando, vabbè, non gli voglio parlare. Vi sto ascoltando, un saluto circolare a tutti, Sandro, Leoncino, Mauro, Falchetto, a te e a Luca che sempre entra e esce, entra e esce. Va bene, un saluto circolare a tutti, non ne voglio parlare, sono stanco, non ne voglio. Se mai se coincide ci sentiamo dopo, comunque. Questo è il Tana più 3 con la KB23. Avanti Falchetto, riprendi tu e fai girare. Tutti, allora Mauro è andato a mangiare, Falchetto idem, Domenico l'abbiamo perso, Luca è stato un attimino, non ho capito cosa che abbiamo fatto, c'era Sandro, è stato lo stesso, poi si è perso, è rimasto solo Giuseppe, adesso mi viene il nome attivo, Giuseppe Leoncino, così. Sì, sì, Giuseppe Leoncino, ma no, c'era Mauro, l'ho sentito, cioè, Sandro l'ho sentito, non so se c'è ancora Sandro. È ok. Ok, scusatemi, io sto concludendo qualcosina, dai. Va bene, va benissimo, tutto lì, ok, lo chiudiamo qua. Va bene, riprendi Roberto. Ok, allora ti ho rilanciato poco fa, guardate, boh, scomparso, stavo parlando degli apparati, dei micro, cosa c'avevi del microfono, mi hai detto tu in questo momento? Vabbè. Sì, a te sta dicendo sta cosa, è un MB5 o qualcosa del genere? No, è l'MB4 della ZG. E infatti è una serie MB, sicuramente dalla modulazione, è uno di quei microfoni, però ti fa, lo sai, fa una cosa originale, non è mai stato toccato quello. Cosa puoi fare? Tu solo dove c'è la capsula, non so se l'hai appena, c'è una specie di piazza rotonda, diciamo, una cosa rotonda, una specie di schermo. Con lo schermo, se tu riesci a sigillarlo con del cotone o dell'ovatta, ti toglie questa specie di effetto metallico, tipo riflettente, cioè ti dà un effetto come se tu stai parlando dentro una camera metallica, qualcosa del genere. Perché si può eliminare senza fare grosse modifiche. Tu li coperchietto, li metti un po' di cotone dietro la capsula, perché ti fa questo effetto intubato, tipo metallico. Per il resto stai andando bene. Ok. No, non lo sapevo, no, ce l'avevo lì messo da parte. E ho detto, ma adesso provo un attimino a metterlo in funzione, a farlo riscaldare un pochettino, però per sincera la verità non gli ho mai fatto niente, addirittura non ho mai neanche controllato neanche la batteria, nulla, tutto lì, ma vedo che va bene, quindi. No, la tonalità ce l'hai, no, però rimane un pochettino metallico. C'è presente quando tu parli in una stanza, per dire, dove ci sono pareti con delle piastrelle, cose del genere, ti fa un effetto di riflessione, ed è dovuto al fatto che la capsula all'interno non c'ha niente, non hanno, per dire, la cassa acustica, c'è presente, all'interno a volte c'hanno dell'isolante, delle assorbenti per le riflessioni interne. Questo qua l'hanno fatto senza niente, te lo dico perché lo stesso problema ce l'avevo io e tanti altri. Mi hanno detto, fai così, o le elimini completamente con la specie di copertura dietro che tiene la capsula microfonica, oppure li metti un pochettino di ovata tutto in giro, così un po' ti attenua quell'effetto lì. Per il resto va benissimo, la modulazione è chiara a 5. Avanti Giuseppe, riprendi. Piano piano si fanno i passi, dai, ci sono cose più importanti. No, dico, probabilmente non pensare che sia il classico criticone che dice le cose, però stai andando benissimo, va tutto bene anche il segnale, perché l'antenna, considerando che è autocostruita, la parte mia sei oltre 9, il segnale sta andando benissimo, c'è qualcosa da migliorare a livello di forza di radio, se vuoi farla, se no va bene così, da parte mia non ci sono problemi, in modo che siamo più o meno tutti allo stesso livello di modulazione, se no ti trovi quello che è basso, l'altro che è alto, uno ti spacca le orecchie, l'altro così, le possibilità varie. Va col tempo, piano piano, naturalmente ci sono cose più importanti oltre a quello, allora è solo un divertimento. Ok, va benissimo, vediamo un po', facciamo un'altra chiamata su 10 generale, se c'è qualcuno, avanti, chi vuole entrare sul canale 10. C'ero io, non c'ero. Cacca, mi dato Anna, mi Luca, Anna e vieni. Sono in pizzeria, roba, era stato che parlava un po' per cui ho capito, mettimi in mezzo, sono in pizzeria direttamente. Avvicinate, dove vai a mangiare la pizza? Avvicinate o sopra in via, come si chiama, la via dove c'è Forbice? Non Forbice, come si chiama, Marcia. Lì è purtroppo da lì, roba, giù, io la prendo giù da, come si chiama, da vicino, vabbè, lì a, da Rubino. Ma quella è vicina da qua, scusate, stai dicendo? Sì. Ah, non quella di su, io sto parlando in via Sulcis. Poi lì l'ho presa, ma ti va. E mi date, via Pasqua e via Succi, sono così compreso. Via Succi. Ah, quella di giù, perché sinceramente non sai che ne abbia sentito parlare molto bene. Comunque, c'erano buone, dicevano, erano buone quelle che c'era vicino alla via tua, dove abito di fronte a te, un periodo che facevano buone, o hanno cambiato gestione. Non lo so, io preferisco quella di Rubino, la Rubino 2, allora. Anche Oggiano non erano malvagie in via Grazia Deledda un periodo, anche se erano più buone quelle più su di Oggiano, sulla destra salendo, non me la metto mentre leggiamo. La mangiamo adesso, bollette. Appetito allora, ok, avanti di nuovo Sandro, che poi farà girare a coso, a Giuseppe. Thank you. Come Luca? Thank you. Ok. Ok, thank you. Ah, thank you, va bene, ok. Scusatemi un secondo che faccio un piccolo lavoretto. Vai Giuseppe. No, questo è Sandro, io sono Roberto comunque. Mauro ha già chiuso. Vabbè, adesso ti devo lasciare, non so se hai sentito, mi hanno chiamato che è pronto la pappa. Ok, ma ci sentiamo più tardi, se ci siete ancora, se no vi saluto tutti distintamente. Ciao ciao da parte mia. Un attimo, Roberto. Dimmi. Ok. Allora, vedi un po', ha cambiato qualcosa? Non ho fatto grosse differenze, perché cos'è fatto? Ha cambiato microfono o che cosa? No, è sempre quello là che mi avevi detto che era metallico. No, mi è sembrato un pochettino più basso di livello, sì, rispetto a prima, ma un peluzzino, ma siamo qualcosa impercettibile, neanche te ne accorgi se non c'è la cosa davanti, qualche indicatore preciso. La modulazione, non lo so, ti vedo carenza di tonalità acute, io almeno qua mi dà questa indicazione qua, è molto, come ho detto prima, un po' metallica. È ok, vabbè dai, devo cambiare un attimino. Vuol dire non li si addice, dai. Ok, ti saluto, dai, magari ci sentiamo più tardi, vado a mangiare, ciao ciao. 77075, attenzione 27075, c'è qualcuno che ascolta, cambio. Oh,